dopo un anno di impegno, di documenti, di elaborazione, addirittura di stesura di un progetto di ristrutturazione delle vecchie scuole BESTA, che adesso giacciono all'interno del parco, ma senza più gli allievi che sono stati trasferiti nella nuova sede del Polo Dinamico, ecco, noi a questo punto abbiamo detto: o riusciamo con il comune a parlare, a discutere e a confrontarci sulle alternative possibili, oppure un percorso finto, fatto di domande chieste ai partecipanti, fatte ai partecipanti per rispondere su cose banali relative al parco, a noi non sembra il modo di partecipare, di pensare alla partecipazione in questa città. Ecco, quando avete un po' cercato di riportare il discorso puntuale sulla questione della scuola, vi ha risposto in maniera abbastanza secca e spiazzante l'assessore Laudani, se non sbaglio. Sì, è andato proprio così. Noi insieme a Lega Ambiente, a WWF e a un altro comitato, quello del Parco Don Bosco, abbiamo chiesto di confrontarci, di fare un vero e proprio contraddittorio con i tecnici del comune. Noi abbiamo da un lato un comune che non ha idee, ma che non vuole riutilizzare le BESTA per la loro funzione. Dall'altro ci sono cittadini che hanno elaborato un progetto. Possiamo confrontarci su questo? Possiamo valutare se un'ipotesi può essere migliore dell'altra? Possiamo confrontarle? Laudani ci ha espressamente detto di no. Il comune non ha nessuna intenzione di cambiare idea sulle scuole medie BESTA, non ha più soldi, quando fino all'anno scorso c'erano in ballo 18 milioni per la costruzione della nuova scuola a quattro foglie, che per fortuna abbiamo sventato. Allora, a questo punto, di farci prendere in giro non avevamo più voglia. Noi abbiamo sempre partecipato al percorso sapendo, conoscendo perfettamente tutti i limiti che ha rispetto a una reale partecipazione, ma ci sembrava un modo per continuare a tenere alta la discussione in città su quello che può essere il futuro del Parco Don Bosco e delle scuole BESTA. Il comune si sottrae all'idea di un confronto, ne ha paura, perché sa benissimo che addirittura il nostro progetto è coerente con quello che era il vecchio piano del comune, cioè costruisco un polo dinamico dove mando gli studenti delle scuole che nel frattempo ristrutturiamo. Ma il comune, secondo me, per risentimenti, livori politici che nulla hanno a che vedere con scelte urbanistiche e scolastiche importanti, continua a dire no. A questo punto, se c'è il no del comune, non si capisce cosa si debba fare in un percorso partecipato. Chiudo dicendo che quando noi, dopo aver letto il nostro comunicato, ci siamo alzati e ce ne siamo andati, la sala è rimasta vuota. Noi eravamo una quarantina di persone dentro, ne sono rimaste poco più di 10 a continuare un percorso che e definire fuffa è un eufemismo. Quali saranno le vostre prossime mosse? Avete già deciso? Beh, no, adesso valuteremo quali possono essere i modi più efficaci per continuare la battaglia, perché è evidente che Bologna non merita di buttare via le proprie risorse. Le scuole BESTA sono una grande risorsa, insomma, per l'incapacità dei nostri amministratori. Troveremo altre modalità.